Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Da una parte un lunghissimo elenco di terribili reati, dall'altra la totale e anche disperata dichiarazione di estraneità degli indagati. In mezzo dei bimbi, i loro disegni, le loro accuse, i loro traumi. Benvenuti nel tunnel buio di Rignano Flaminio e nell'inchiesta tra le più contestate degli ultimi anni sui presunti abusi nella scuola materna Olga Rovere. Quando la procura di Tivoli chiude l'indagine con la richiesta di archiviazione per due indagati e di rinvio a giudizio invece per gli altri tre, a distanza di più di 3 anni, forse uno solo è davvero il punto incontestabile che dei bimbi, a volte piccolissimi, hanno sofferto, sballottati tra tribunali e psicologi, tra troppe domande e pochi giochi, come hanno sofferto anche le famiglie delle maestre arrestate e che ora rischiano il processo. Abusi, sequestri, reati che la procura di Tivoli contesta a 3 ex insegnanti e al marito di una di loro, Gianfranco Scancarello, autore televisivo, che ora dice: questo è il sonno della ragione. Se è vero che la logica deve informare il procedere dell'uomo in una realtà, in questa realtà, abbiamo la sensazione che la logica non ci sia. In qualche modo i capi di imputazione ripercorrono quasi pedissequamente le accuse con le quali era stata effettuata l'ordinanza di detenzione, quella che il 24 di aprile del 2007 ci portò in galera, per essere chiari, per 17 giorni. Nonostante ci sia stata una sentenza del Tribunale della Libertà, Tribunale di Esame, che ha sentenziato l'insussistenza, la pochezza degli elementi indiziari e ci ha scarcerati immediatamente, nonostante la Cassazione abbia respinto in maniera anche perentoria il ricorso del PM con una motivazione molto dettagliata, noi ci ritroviamo a 2 anni, dopo che per 2 anni siamo vissuti in questa sorta di tetro medioevo, ci ritroviamo con una reiterazione di quelle accuse, dopo che nel frattempo sono state effettuate tutta una serie di indagini che non hanno addotto alcun motivo, almeno per quello che noi sappiamo, aggiungendo qualche cosa di nuovo al quadro, all'impianto accusatorio. Allora, di fronte a questo è chiaro che che cosa ne pensiamo? Pensiamo che la logica sia andata a far benedire e che ci ritroviamo di fronte a una insistenza che ci lascia quantomeno perplessi. Lei ha citato alcuni dei passaggi di questa vicenda che è stata vissuta molto anche sotto i riflettori mediatici. In questi mesi c'è stato anche un lunghissimo incidente probatorio in cui sono stati ascoltati dei bambini e le testimonianze di questi bambini sono frasi, sono dichiarazioni che alludono a brutti giochi, entrano alcuni un po' più nel dettaglio di presunti abusi. Ecco, comunque resta il fatto che sono queste testimonianze dei bambini al centro di questo processo. I bambini un tempo venivano considerati la bocca della verità. Sul fatto che i bambini siano la bocca della verità e sulla beata innocenza dell'infanzia non ho nulla da dire, perché essendo padre di famiglia di 4 figli e nonno di un nipote, so che l'innocenza esiste. Ma da questo a far diventare questo una teoria pregiudiziale sulla conoscenza effettiva dell'infanzia, troppo ne corre. I bambini quando giocano shakerano insieme reale e fantastico, per cui se parlano di Robin Hood è presente accanto a loro e a volte si rivolgono al proprio genitore chiamandolo Robin Hood. Provvedono attraverso la lente deformante del fantastico a impadronirsi della realtà. Reale e fantastico si mixano. Dopodiché entriamo immediatamente in questi incidenti probatori. Non parlo della qualità delle persone che hanno discusso le dichiarazioni di questi bambini, non entro nell'ambito anche se avrei molte cose da dire. Viene descritta questa casa dei misfatti, quella che è stata la casa nella quale i miei figli sono cresciuti, sarebbe la casa dei misfatti, ma nessuno ne riesce a descrivere il contenuto interno di questa casa, che se ne dica poi all'interno dei media sia davanti alle telecamere da parte di qualcuno. Si parla di a casa della maestra Patrizia, poi qualche bambino dice ma la maestra Patrizia non c'era, qualcuno ha detto, me l'ha detto la mamma. Ci sarei arrivato più avanti. Qualcuno ha detto che le ho sentite alla televisione, qualcuno ha descritto questa maestra Patrizia bionda, magra, grassa, mentre mia moglie insomma non corrisponde a questo tipo di definizione. Qualcuno ha parlato anche di lei direttamente, anche se qualcuno le ha cambiato anche il nome, lo chiamava forse alcuni Giovanni, poi lo chiamavano Gerry Scotti. Senta, se io la chiamassi Umberta lei in questo momento, lei si sente Umberta? Dicevano il marito della maestra Patrizia, qualcuno, qualche bambino diceva, ha parlato direi, dandole il, diciamo così, il soprannome di Gerry Scotti. Ma guardi che io non ho caratteristiche similari a quelle di Gerry Scotti, se io devo andare in galera per questo, allora io lo vorrei capire, perché vorrei capire in che tipo di paese mi sto trovando e soprattutto quanto ancora devo dire ai miei figli: continuate a credere nell'istituzione giustizia. Vede che c'è un principio di fondo su cui tutti i cittadini italiani non possono non riconoscersi, anche perché è fondamento della Costituzione. L'unica etica del pensiero è la logica. Allora, questo che mi chiamino Gerry Scotti, io lo devo confrontare con tutti gli accertamenti bancari che sono stati fatti sul mio conto e sul conto di tutti i miei familiari, lo devo confrontare col rilevamento delle impronte digitali che sono state eseguite dentro la mia casa il 12 di ottobre, lo devo confrontare con i tracciati telefonici delle non comunicazioni esistenti tra noi e gli altri cosiddetti compartecipi a questa banda pedofila. Lo devo confrontare con la perizia dei RIS di 100 peluche esaminati, di cui il DNA dei figli di questi signori denuncianti non risulta, mentre risultano solo il DNA dei miei figli. È chiaro che poi è stato detto che sono stati anche lavati, vabbè, ma questo è tutto un altro film. Lo devo confrontare con l'esame dei 10 computer tra fissi e portatili che mi sono stati sequestrati e tenuti dai RIS e verificati, e non c'è un'immagine o un documento che possa far pensare a tutt'altro. Lo devo confrontare con il risultato di telecamere installate a scuola per più di un mese e mezzo, lo devo confrontare insomma con i dati obiettivi, e la logica si formula sui dati obiettivi, se no questa non è molto diversa da una caccia alle streghe. E torniamo al punto di partenza della mia domanda. Partiva proprio da questo presupposto, cioè il fatto che alla base anche delle divisioni e delle spaccature che questa inchiesta sta portando, c'è proprio il fatto che l'asse portante di questa inchiesta, così come è arrivata nel suo avviso di conclusione, sono soltanto le dichiarazioni dei bambini e delle famiglie. Quello che le volevo chiedere è se è mai capitato che degli alunni, ecco, di sua moglie siano venuti a casa vostra. Mia moglie, insieme alla maestra Magalotti e alla maestra Pucci e insieme alle altre 13 insegnanti, vede, non erano di passaggio e non sono state di passaggio in quella realtà scolastica. Ci sono chi da 20, chi da 25 e via dicendo, e hanno formato intere generazioni. Forse ci sarebbe da dire che il Rignano Flaminio ha vissuto una trasformazione da paese come era intorno fino agli anni 90, quando noi siamo più o meno arrivati, è diventato gradualmente un quartiere periferico di una grande città. Se poi le strutture non riescono a tenere il passo, si creano sacche di povertà effettiva dal punto di vista proprio contenutistico. Oltre che con i mattoni, i paesi vanno fatte anche con ipotesi socioculturali serie. Forse bisognerebbe ragionare anche sull'universo sociale piuttosto composito di Rignano Flaminio, perché credo che in queste realtà, come dire, periferiche, si vengano a creare condizioni non qualitativamente rispondenti a criteri ottimali di vita. Per quello che concerne invece il discorso del come mai possa venire fuori da lì una cosa di questo genere, io non lo so. Quello che le posso dire è che l'asilo McMartin degli anni Ottanta, il caso Utrui in Francia, il caso del Brescia, le scuole materne Sorelli, hanno comprovato che non esistono agglomerati delinquenziali pedofili, lo hanno confermato, e le normative dei paesi a cui ho fatto riferimento, escluso Brescia perché ci ha semplicemente preceduto in questo calvario che si chiama il caso pedofilia Rignano Flaminio, hanno provveduto attraverso opportuna formazione degli operatori della giustizia e di quant'altri e attraverso delle formule normative a provvedere a evitare che ci fosse questa persecuzione nei confronti di persone che, superata l'età dei 50 anni, come nel mio caso, si tramuti all'improvviso in una sorta di mostro, quale poi nel periodo 24 aprile, 10 maggio, il periodo della mia detenzione, sono stato mostrato e additato come mostro, appunto, su tutti i giornali, stampa, televisione e quant'altro. Allora è chiaro che se noi viaggiamo sull'onda emotiva, i bambini hanno ricevuto punture in testa, così come risulta dalle dichiarazioni, dalle denunce dei genitori che venivano rapiti a scuola, si facciano tutte le ipotesi, ma tutte le ipotesi vadano messe al più serrato e logico riscontro. Non è avvenuto, e questo significa che io sono finito in galera insieme alle altre persone senza che una corte di magistrati che si chiama Tribunale del Riesame e Cassazione abbiano potuto pronunciare questi signori devono tornare in galera. Qualche cosa di contraddittorio a questo punto forse c'è. Quindi lei dice la procura di Tivoli si è fatta bastare le dichiarazioni dei bambini senza a queste trovare un riscontro. Quindi ai bambini che casomai raccontavano di essere venuti a casa vostra, sia ben inteso. Sono casomai anche andati a casa di alcune maestre, ma in assenza di verifiche, di perizie che confermino quanto dicano i bambini, non possono essere l'unica fonte d'accusa. È questo quello che lei dice? Ma non è materialmente possibile, perché questo significa che io domani mattina vado alla stazione dei carabinieri più vicina e dico che lei, mia figlia di 13 anni, mi ha detto che lei, mia interlocutrice in questo momento, ha tentato di violarne l'intimità. E lei, non è pensabile che solo perché io ho avuto questa specie di trovata lei vada a finire telefono controllato, che va benissimo, che la controllino pure, però va a finire in galera sulla base di questa mia dichiarazione o eventualmente della dichiarazione di un bambino fra i 3 e i 5 anni, ma stiamo scherzando? Storielle. Storiacce. Per il caso Rignano Flaminio ha dovuto cambiare casa con la sua famiglia, ha subito qualche conseguenza anche nel suo lavoro e ora che lui, la moglie e altre due persone rischiano il processo per l'inchiesta sui presunti abusi nella scuola Olga Rovere, Gianfranco Scancarello tira fuori tutto il suo sbigottimento e tutta la sua incredulità per le terribili accuse rivolte loro e dice: questo è il sonno della ragione. Ma come spiegare il racconto di quei bambini che parlano di giochi bruttissimi, di castello di mostri, di uomini incappucciati e tirano in ballo la maestra Patrizia, moglie di Scancarello e lui stesso. Scancarello, noto autore televisivo, tra l'altro proprio di programmi per l'infanzia, trova la spiegazione nella letteratura giuridica. Il racconto dei bambini lo si spiega subito, è stato spiegato in tutti i casi, si parla chiarissimamente di contagio dichiarativo ed è conosciuto dalla psicologia dei fenomeni collettivi. cioè sono le stesse dinamiche queste, appunto, di quelle, di quegli processi agli untori e alle streghe. Questo contagio dichiarativo parte con le denunce presentate ai carabinieri di Bracciano. Si tratta di denunce collettive che raccontano di riunioni tra genitori e bambini di volta in volta in case di famiglie diverse, nel mostrare dei videotape dai quali risultava della prima comunione, ma sarà questo, sarà questo, sarà questo, cioè negli atti, non mi sto inventando nulla, di telefonate tra genitori dichiarate in queste denunce, di perlestrazioni fatte dai genitori con i bambini. E che cosa vogliamo dire degli interrogatori inducenti, risposte a senso unico e quindi di interrogatori suggestivi dei genitori ai bambini che sono stati filmati? Mi scusi. Uno degli avvocati, infatti, ha parlato di psicosi collettiva. Ed è, si chiama così. Se è psicosi collettiva non sta a me deciderlo, io credo ancora nell'istituzione della giustizia, continuo a crederci nonostante tutto, ma certo mi viene di pensare che lo sia una psicosi collettiva, visto che 20 bambini, tutti in tenerissima età tra i 3 e i 5 anni, vengono drogati, violentati, malmenati in maniera continuativa, subiscono punture in testa e genitali, sfregi con i vetri in parti intime, vengono riportati a scuola, però se ne devono essere usciti da questa scuola, sia ben inteso, e nessuno di questi all'uscita da scuola non abbia mostrato ai propri genitori, non dico tanto, un segno, abbia quantomeno accennato a questa esperienza vissuta. Nessuna commissione medica ha riscontrato alcun segno di violenza e non c'è un solo referto medico che afferma il contrario. E tornavo appunto alla mancanza di riscontri sulle dichiarazioni. Per lei, che ha lavorato e lavora appunto in trasmissioni legate al mondo dell'infanzia, le chiedevo se la bufera di questa inchiesta abbia portato degli effetti e delle conseguenze anche nella sua sfera professionale. Guardi, delle conseguenze le ha portate, delle altre non le ha portate, perché questa tristissima esperienza e questo medioevo dell'esistenza della mia famiglia, lo continuo a chiamare così ma con grande rispetto nei confronti della civiltà medievale, è stata una tragedia vera e propria. Esistono due facce però di questa esperienza: una, quella del mostro dipinto su tutti i giornali, dall'altra segnali di solidarietà. Io ho trovato una solidarietà, tant'è vero che ho continuato a lavorare ugualmente. Certo, ci sono state un'emittente televisiva che ha dovuto prendere in qualche modo ha pensato bene di cautelarsi, mi auguro che lo abbia fatto attraverso gli strumenti di legge opportuni, ma insomma non è questo il grosso problema. Il vero problema è che al di là della tragedia personale, quella che più mi ha fatto e ci ha fatto me e mia moglie anche soffrire è stata quella vissuta dai figli nel loro insieme, ma da una figlia in particolare, perché lei deve pensare che tutti quanti, io sento parlare sempre di questi 20 bambini sofferenti, ma nessuno fino a oggi ha mai messo in luce che una bambina di 13 anni, mia figlia, il 24 di aprile del 2007 è stata sradicata dalla casa nella quale era nata e cresciuta, dalla scuola e da tutti i compagni di classe. Ha perso in una botta sola per 17 giorni e i figli più grandi hanno dovuto spiegarglielo, che i genitori erano finiti in galera con questa accusa, e sfido chiunque a spiegare a una ragazzina di 13 anni questa cosa, e ha dovuto cambiare tutto. Sicuramente queste vicende sono delle bufere che portano nel tritacarne intere famiglie. Voi avete anche cambiato casa? Assolutamente, ma d'altra parte le minacce ricevute, che poi si sono, la paura di che potessero essere messe in opera, ci hanno costretto ad andare via immediatamente. Io feci una telefonata dalla caserma dei carabinieri di Bracciano a mio figlio, che non dimenticherò mai nella mia vita, nella quale dissi: adesso in questo momento a 24 anni sei tu, a 23 anni tu sei il capofamiglia, prendi le tue sorelle e vai via immediatamente da lì. Questa è la realtà. Che minacce avete avuto? Guardi, striscio bastoni che sono stati messi sulla Flaminia, che sono stati poi tolti poco dopo. Questo nei giorni dell'arresto? Nei giorni precedenti anche all'arresto, immediatamente precedenti, perché si stava gonfiando poi a un certo punto tutta la vicenda, perché prima ci fu il 12 di ottobre l'irruzione di carabinieri, RIS, e anche questo lascio immaginare che tipo di, che cosa possa significare alle 6 del mattino sentire bussare alla propria porta di casa propria e ritrovarsi con 30 carabinieri, chi in vestito bianco, chi in borghese, chi in divisa. Vabbè, insomma, fa parte del gioco, cioè, va benissimo tutto, va bene tutto, l'importante è che si parta, che l'istituzione giustizia però funzioni diritto costituzionale della presunzione di innocenza. Avete avuto minacce anche dopo che siete usciti dal carcere, anche in questi altri mesi? No, abbiamo avuto però molta paura, gliel'assicuro, perché giravano chiacchiere nel paese molto brutali. Di che tipo? No comment. Cioè di gente che voleva farsi giustizia da sé? Erano voci delle quali io non intendo neanche parlare. I siti sono pieni di... Addirittura di sondaggi, perché Rignano... La vita delle persone in questo paese diventa oggetto di un sondaggio più che oggetto di riflessione critica delle responsabilità che ci sono in campo. Tutti ricorderanno, a segno anche di come questa inchiesta sia stata vissuta dall'Italia intera, le riprese televisive che facevano vedere il giorno della vostra scarcerazione, c'erano anche insomma chi suonava il clacson e dall'altra parte poi c'erano i capannelli dei genitori, dei bambini, quindi un chiaro e evidente anche segno di una spaccatura molto forte all'interno della comunità. Domando a lei, se mi permette, a fronte di questo quadro che lei ha disegnato, domando a lei, chi ne è responsabile di questo? Io a lei volevo chiedere, lei come ha vissuto il tempo insomma che è rimasto all'interno di Rignano prima di cambiare casa e che cosa vuol dire all'interno di una comunità del genere, quindi anche abbastanza piccola, una divisione così profonda, vuol dire anche cambiare abitudini, andare da un, non so, da un supermercato piuttosto che in un altro? Certo, so che la maestra Marisa Pucci è stata malmenata dentro un supermercato, giusto perché mi sta parlando di questo. Io non so dire quali, mi piacerebbe sapere quali sono le azioni di consolidamento dei valori che amalgamano una comunità e quindi le politiche poste in essere da chi ha responsabilità istituzionali a livello locale. Io credo che in assenza alcune cose accadono proprio perché ci sono dei vuoti anche, come dire, di proposta culturale. Quindi vuol dire che questa comunità è ancora così profondamente spaccata? Io non vivo più a Rignano e quindi il mio sguardo è uno sguardo lontano e, se vuole, comunque sia non oggettivo, sicuramente, perché è permeato, certo, da un'emotività. Però la sensazione che io ho non è quello di una spaccatura, è quello di una comunità che è come un pugile un po' suonato, che si sta domandando: ma come è potuta succedere una cosa del genere qui, in questo posto? E forse hanno la necessità di interrogarsi il più possibile e di immaginare dei percorsi di riflessione critica, perché se questo succede, delle cause di patologia sociale, vuol dire che esistono.